Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Fred, alla redazione di Valloon, www.radiovalloon.info. Ben ritrovati e ben ritrovata alla prima puntata per questo nuovo anno di trasmissioni. Come sarà quest'anno? Lo scopriremo mano a mano, ma sicuramente ci saranno le nostre presentazioni dei libri, le segnalazioni delle nuove uscite editoriali legate alla storia, naturalmente, la nostra rubrica La Petite X legata al racconto della storia attraverso le storie di vita, nonché il nostro calendario civile. E la parola chiave che può mettere in comune tutti questi appuntamenti comunque è quella della storia, ovviamente, ma anche delle storie. Storie che ci possono condurre verso delle pagine che vale la pena di riscoprire, perché ci parlano di mondi diversi dal nostro, ma che raccontano anche qualcosa del nostro mondo. Lo vediamo subito da questa puntata, che raccoglie un po' l'eredità di una rubrica che ci aveva accompagnato lo scorso anno, Nota a piè di pagina. E come in altre puntate, noi partiamo per un viaggio che non possiamo fare fisicamente per ragioni economiche e anche ragioni di carattere generale, ma è un viaggio che facciamo attraverso la storia. Solo che il punto di partenza che prendiamo questa volta è un po' strano. Noi andremo lontano, lontanissimo in questa puntata. Daniele Silvestri avrebbe detto che saremmo andati oggi e verso un'isola lontana dove vive una favola cubana. Ovviamente abbiamo capito di che isola stiamo parlando, ma il punto di partenza è un po' bizzarro. È la stanza di un ragazzo di provincia nel 2001 che prepara la tesina per l'esame di terza media. Bene, in quella stanza, mentre si scriveva in maniera forse molto ingenua la storia dell'isola di Cuba e se ne presentavano le caratteristiche socio-economiche, suonava un disco che aveva e ha qualcosa di meraviglioso, un disco di cui celebriamo oggi i 25 anni, Buena Vista Social Club. D'altronde anche per musica bisognava prepararsi. Allora in quella cameretta suonavano le note e risuonavano le parole di Ibrahim Ferrer, El Negrito, come l'aveva definito, niente meno che Khrushchev, Compay Segundo, Omar Aportundo, le chitarre a sei corde suonate da Eliades Ochoa del quartetto Patria. Anche allora la mente partiva per quel viaggio. Un viaggio che suonava più o meno così. Por el camino del sitio mio, un carretero alegre pasó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Bam, bam. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Bam, bam. Para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo. Bene, sono passati esattamente 20 anni da quei sogni. Il viaggio, naturalmente, che era stato immaginato nel 2001, non è mai stato realizzato, e la realtà e la storia hanno iniziato a essere raccontate in una maniera un po' più composita, fatta anche di grigi, non solo di bianchi e neri. Però alcune cose sono rimaste. È rimasto innanzitutto il bloqueo, il drammatico e vergognoso embargo che gli Stati Uniti continuano a tenere nei confronti di Cuba, che continua a stritolare l'economia e la società cubana. Ed è rimasta la bellezza di questo disco di cui parliamo oggi, Buena Vista Social Club. Un disco registrato nell'arco di 2 settimane, partendo dall'intuizione del chitarrista statunitense Ray Cooder e del produttore britannico Nick Gold dell'etichetta World Circuit, che radunarono agli studi Egrema di La Habana il meglio della scena artistica e musicale cubana. Alcuni nomi li abbiamo già citato, ripetiamo: Compay Segundo, Ferrer, ma c'erano anche Pio Leiva, Ruben Gonzales, abbiamo citato di nuovo e la recitiamo, Omar Aportuondo, e noi stiamo citando i nomi più famosi di quel, di quella fantastica jam session che si realizzò a L'Avana in quelle giornate. Un momento che venne poi, come ben sappiamo, immortalato, reso celebre anche da un film, Buena Vista Social Club, che uscirà nel 1998 per la regia di Wim Wenders. Un'operazione interessante, dicevamo, un'operazione che ha qualcosa di strano, una nota storta. È Buena Vista Social Club il disco che ha immortalato la scena musicale cubana, ma è un disco che è stato pensato, registrato, costruito da dei musicisti bianchi occidentali che nulla avevano a che fare con quell'isola. Ripetiamo, Ray Cooder, il figlio Joachim, e il produttore britannico Gold, che hanno confezionato un disco eccezionale, questo lo ripetiamo naturalmente, ma che da un lato ha costruito uno standard della musica cubana in maniera anche abbastanza artefatta, perché molte delle sonorità dell'isola di Cuba sono state in parte tagliate fuori, ma che allo stesso tempo era fatto per funzionare all'interno di un circuito musicale che era quello occidentale, in cui quindi veniva esportato dall'isola qualcosa di ben riconoscibile. Tutto questo poi è stato anche esaltato, fra virgolette, dal film di Wim Wenders, altro capolavoro, per carità, non stiamo qui a criticarlo per questo, che però ha contribuito a costruire un altro immaginario da cartolina dell'isola di Cuba, di un territorio povero ma felice, verrebbe da dire, con i vecchi che fumano questi sigari giganteschi, le case fatiscenti, gente povera ma con il sorriso, le Cadillac e le Dodge americane tenute in piedi dai miracoli di qualche meccanico che sfrecciano all'interno di questa città, L'Avana, un po' che si fa fatica a tenere in piedi. C'è molto da dire su questo, e da questo punto di vista vi rimandiamo a un bellissimo articolo di Valerio Corzani, musicista e critico musicale, che su Alias di qualche settimana fa ne aveva parlato, aveva messo il dito su queste criticità. Noi però andiamo a prendere un altro aspetto che sta dietro questa immagine. Gli artisti che Ray Cooder ha radunato sono gli artisti che rappresentavano uno stagione straordinaria della musica di Cuba, quella in cui Cuba si trovava a uno dei vertici di un triangolo musicale gigantesco che teneva insieme l'America del Nord con New York e l'America del Sud con Rio de Janeiro. È la stagione del Buena Vista Social Club, il circolo da cui prende il nome questo bellissimo disco. Beh, quell'epoca però, se è stata il top della musica cubana in un certo senso, è stato probabilmente anche il periodo peggiore dell'isola. A quell'epoca a L'Avana c'erano oltre 60 club e cabaret con due o addirittura tre spettacoli a sera, senza contare i ristoranti e i bar in cui suonavano terzetti, pianisti e perfino orchestrine. Incredibile, disse il piccione, sinceramente stupito. Riuscite a immaginare quanti artisti dovevano esserci per mantenere un ritmo simile? L'Avana era frenetica, credo che fosse la città più viva al mondo, altro che Parigi o New York, troppo freddo. Era qui la vera vita notturna. Certo, c'erano puttane, droghe e mafia, ma la gente si divertiva e la notte cominciava alle 6 del pomeriggio e non finiva mai. Provate a immaginare, nella stessa notte potevi berti una birra alle 8 ascoltando le Anacaonas nei caffè all'aperto del Prado, cenare alle 9 al suono delle canzoni di Bola de Nieve, poi sederti al St. John per ascoltare Elena Burke e dopo andare al cabaret a ballare con Benny Moré e riposarti un po' cullato dai boleri di Olga Guillot, Vicentico Valdés e Nico Membiela. E per concludere la nottata, alle 2 del mattino fare una scappata alla spiaggia del Marianao per vedere lo spettacolo di Ciori che suonava i tamburi e tu lì, seduto tra Marlon Brando e Cab Calloway, accanto a Errol Flynn e a Josephine Baker. E poi, se avevi ancora fiato, potevi scendere alla gruta laggiù alla rampa e fare l'alba immerso nel vortice jazz di Cacao con Tata Guinness, Berreto, Bebo Valdés, il Negro Vivar, Frank Emilio e tutti quei ragazzi che sono stati i migliori musicisti che abbia prodotto Cuba. Erano migliaia aria, la musica era nell'aria, si poteva tagliare con un coltello, bisognava spostarla per riuscire a passare. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servía la arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Limpié el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco. No puedo llegar. Per capire ciò di cui parliamo in questa prima puntata di Balloon dedicata ai 25 anni del Buenavista Social Club, partiamo dalla storia di uno dei grandi protagonisti di questa grande jam session che ha dato vita a questo disco, Compay Segundo. È il nome d'arte di Francisco Repilado, è un chitarrista, cantante che ha passato la propria vita sui palcoscenici, che aveva iniziato a suonare a Santiago nei primi anni 20. Era un suonatore di guayara, il genere tipico delle campagne cubane, basata sulla voce e la chitarra, che poi era passato ad occupare le scene, i palcoscenici dell'Havana, e che poi aveva conosciuto una sorta di parabola discendente fino al Buenavista Social Club. Nelle interviste che rilasciò all'indomani della pubblicazione del disco, lui ne è un grande protagonista di questa operazione. Gli intervistatori occidentali naturalmente gli ponevano domande sul regime socialista. È anche ovvio che così fosse, perché ricordiamoci, Cuba viveva in quel momento una delle fasi dure della crisi legata all'embargo. Erano pochi contatti che aveva l'Occidente con artisti e musicisti di Cuba, per cui era normale fare delle domande che a noi possono risultare quasi caricaturali. E circa i suoi rapporti col regime, lui rispondeva con una grande freddezza. Da un lato c'era sicuramente l'ovvia autocensura di chi vive in un paese autoritario, ma c'era anche qualcosa di più. Per Compay Segundo, l'avvento del comunismo a Cuba ha coinciso con la fine di quella stagione d'oro che hanno vissuto i musicisti cubani, musicisti soprattutto come Compay Segundo e quelli della sua generazione. Un'epoca di cui sono stati protagonisti, in cui a L'Avana in particolare, ma anche a Santiago e in tutta l'isola, era un fiorire di locali, di occasioni di lavoro per questi musicisti. Perché? Perché erano gli anni della dittatura di Fulgencio Batista, ma erano anche gli anni in cui la mafia italoamericana faceva i suoi investimenti a Cuba. Per capirsi, è l'epoca di cui parla James Ellroy in American Tabloid. Beh, quella stagione è finita con la rivoluzione del 59, ma soprattutto è finita con la costruzione dello Stato socialista a Cuba. È veramente così? Uno degli altri rischi dell'operazione, oltre che l'aver costruito uno standard all'alto della musica cubana, è quella di datare la fine di questa grande stagione del mondo musicale all'arrivo del comunismo. Adesso su questo noi metteremo le mani e lo racconteremo, quella stagione, attraverso una fonte un po' particolare, perché prendiamo delle pagine da La nebbia del passato, un bellissimo romanzo giallo di Leonardo Padura Fuentes, un grande scrittore cubano, che ambienta una delle avventure del suo detective Mario Conde proprio nella ricerca di quell'epoca lontana di grande successo musicale, perché Mario Conde si mette alla ricerca di una cantante dell'epoca, Violeta Del Rio, e per farlo va a ripescare le memorie dell'epoca, diciamo, del Buena Vista Social Club. Conde si allontanò dal trambusto notturno e si incamminò lungo la rampa, con i limiti cronologici della nostalgia situati ben al di là della sua memoria personale, oltre il suo ricordo più remoto, in cerca delle tracce ancora visibili di una città riluttante e depravata, un lontano pianeta di cui aveva soltanto sentito parlare e che aveva scoperto grazie a dischi dimenticati e infinite letture, nelle cui evocazioni appariva sempre pieno di luci, club, cabaret, melodie, personaggi che adesso lo sapeva, quasi 50 anni prima doveva aver frequentato Violeta Del Rio con i suoi sogni di gloria alla ricerca del suo posto nel mondo. Senza fermarsi, passò davanti all'insegna rivitalizzata di La Zorra y el Cuervo, locale dove un tempo aveva cantato quella donna, adesso vietato a chiunque fosse sprovvisto di $5 americani necessari per farsi aprire le porte e garantirsi un posto a sedere. Contemplò l'ingresso ermeticamente chiuso dalla gruta, da cui non uscivano più gli echi degli accordi nottamboli che in passato facevano rimbombare quella grotta musicale quando fuori già cominciava a spuntare il sole. Guardò senza particolare emozione le rovine carbonizzate del vecchio Montmartre, proletariamente ribattezzato Mosca e profeticamente divorato da un incendio qualche anno prima della caduta dell'impero. Passò quasi di corsa davanti al portone disadorno del cabaret Las Vegas, di fronte al quale notò un uomo all'incirca della sua età che guardava con particolare nostalgia quel posto ormai sprangato in cui per moltissimi anni si era potuto bere l'ultimo caffè dell'alba Habanera. Senza speranza attraversò la strada all'altezza dell'edificio coronato dal Pico Blanco e non fu sfiorato da alcun arpeggio di chitarra. Proseguì verso l'oscurato salone rosso del Capri, con le porte sbarrate da una catena, e finalmente entrò nei giardini dell'Hotel National, passando in mezzo agli sguardi torvi dei sorveglianti armati di walkie-talkie che gli risparmiarono la vita lasciandolo passare senza fargli domande, ma gli lanciarono un'occhiata accusatrice per il reato di essere cubano, di non possedere dollari e di non far parte del giro. Il discorso naturalmente è molto più articolato di quello che è stato tratteggiato dall'operazione Buena Vista Social Club, tanto dal disco quanto dal film, ma naturalmente non tutto va imputato a Ray Cooder e a Wim Wenders. In particolare Ray Cooder è un musicista che si è confrontato con diversi panorami musicali extraeuropei, l'ha fatto anche con una certa curiosità, un certo rispetto e una certa attenzione. Va detto che non c'era in Occidente negli anni 90 una reale conoscenza del panorama musicale cubano, perché semplicemente la musica faceva fatica ad uscire, come tutto il resto da Cuba, per colpa dell'embargo. Per cui Ray Cooder nell'organizzare questa operazione musicale, diciamo, per colmare un vuoto nella conoscenza da parte del pubblico occidentale della musica cubana, si è affidato molto alla memoria di questi grandi protagonisti di quella stagione. E la memoria, noi sappiamo, noi che ci occupiamo di storia e di storie, sappiamo che è una fonte molto interessante, ma che conosce anche qualche limite, che deve essere presa con cura, deve essere trattata con attenzione. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you. se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Sul nostro sito www.radiovallun.info, come d'abitudine, troverete il podcast di questa puntata, sarà disponibile a partire da lunedì mattina, e come al solito troverete dei riferimenti che ci sono stati utili nella costruzione di questa puntata. Noi riprendiamo questo discorso sulla memoria proprio per una delle segnalazioni che vi faremo, e sul nostro sito troverete il link a un bellissimo ciclo di puntate di Zibaldone, il programma di lingua italiana della Radio Libera Barceloneta Contrabanda, che nel 2017 era stato dedicato proprio alla morte di Fidel, raccontando la storia di Cuba, la storia dei grandi cambiamenti dalla dittatura di Battista fino per l'appunto alla morte del leader Máximo, ricorrendo alle canzoni. A fianco a Steven Forti, nome noto della storia e del dibattito culturale italiano, che è conduttore, uno dei conduttori di Zibaldone, c'è la voce anche di Sergio Secondiano Sacchi, che è un responsabile del club Luigi Tenco, che conosce molto bene la storia cubana e la storia musicale di Cuba. Beh, quello che dice Secondiano Sacchi soprattutto è molto interessante e ci aiuta a relativizzare questa operazione Buena Vista Social Club e soprattutto a relativizzare quel tipo di memoria. Nella memoria di questi grandi protagonisti come Compay Segundo, l'avvento del socialismo a Cuba ha coinciso con la fine della grande stagione musicale, per cui più o meno, in maniera più o meno celata, emerge una rabbia nei confronti del castrismo che ha ridotto la musica. In realtà noi sappiamo che non è così, perché se pensiamo a Omar Aportundo, Eliades Ochada, il chitarrista che è membro del Quartetto Patria, quindi un ensemble musicale che ha girato veramente molto il mondo, noi sappiamo che non è stato il regime a chiudere quella stagione di vita musicale cubana, ma è stata la storia. Ricordiamoci che siamo nei primi anni 50. Beh, quello è il momento in cui nell'America Latina esplode la bossa nova e negli Stati Uniti e poi nel resto dell'Occidente esplode il rock and roll. Quindi se è finita l'epoca delle grandi orchestre è stato sicuramente a causa della fine del fiume di denaro proveniente dagli Stati Uniti, ma è anche stata una questione anche di gusti e di mode presso il pubblico. Noi vi lasciamo con questa riflessione, però ci sarebbero anche altre carte da giocare nell'arco di questa puntata, perché sarebbe interessante capire qual è stata la ragione del successo musicale di Buena Vista Social Club, oltre alla grande qualità della produzione musicale e le grandi capacità degli artisti, perché forse anche nel pubblico occidentale c'era la voglia di trovare un'immagine nostalgica da cartolina di un'epoca lontana, ma questa forse è già un'altra puntata. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey. Ciao!